tu questa sera stranamente su, eccitata più che mai, vuoi giocare con la verità, ma si gioca addosso a me. Questo amore mio, questa serata l'ho voluta io, questa allegria che mancava un po' nelle sere in casa tra di noi. La cosa che ti avrei detto poi è che stasera più che mai sentivo quanto eri grande tu e quanto il resto non contasse più. Voi l'avete fatta benissimo, ma sono convinto che la potete fare ancora meglio. Fatevi sentire in tutta Italia. Dai! Ok, Riccardo, tu sì. Dai l'attacco, eh? Che faccio? Okay. Gli dai l'attacco. Parla attacco forte, che sono un po' loro. Sordo io. Gli dai l'attacco. L'attacco. Loro. Ok, do l'attacco. E pensa questo amore mio, questa serata l'ho voluta io, questa allegria che mancava un po' nelle sere in casa tra di noi. La cosa che mi ha detto noi è che stasera non è mai sentivo quanto eri grande tu e quanto il resto non contasse più.